in primo piano. Venerdì 6 maggio, per la verità l'apertura, le aperture sono diversificate, diversi quotidiani invece aprono sul decreto sviluppo, così il Sole 24 Ore, casa e fisco più semplici, credito d'imposta e bond per il Sud, nuovi limiti ai controlli. Per il Corriere della Sera invece misure per neoassunti e Sud, sì al decreto sviluppo. Anche il Messaggero, via al decreto per lo sviluppo. Per Libero si prende uno spunto di questo decreto sviluppo. Parola di Tremonti, persecuzioni fiscali alt. Si dedica invece sul rilancio dell'Italia al Giornale, che poi titola Silvio sveglia gli industriali, il Premier facciano qualcosa per il Paese. Poi c'è chi sceglie ancora l'attualità internazionale come Repubblica, i piani segreti di Bin Laden, mentre la Stampa, Obama mantenuta la promessa. La vicenda dei sottosegretari la troviamo in apertura del Fatto Quotidiano, nelle mani di questi, e ci sono le 9 foto dei 9 nuovi sottosegretari. Per l'Unità all'incasso, e ci sono sullo sfondo sempre quelle facce dei sottosegretari. La carica dei sottosegretari anche per il Secolo XIX, il Manifesto, la grande abbuffata e il Riformista aggiunge un posto a tavola. Sono titoli che, come potete immaginare, sono legati alla questione delle nuove poltrone assegnate. Allora, da cosa voglio partire come segnalazioni? La prima la troviamo sul Corriere della Sera, un'intera pagina con richiamo anche in prima pagina dedicata al mondo della scuola. È una inchiesta che la rivista Tutto Scuola ha fatto per misurare la qualità del sistema di istruzione. Il primato del Piemonte a scuola. È questa rivista, appunto, che ha utilizzato 96 indicatori, secondo il direttore Giovanni Vinciguerra. Ad ogni voce è stata data un peso diverso a seconda dell'importanza, che ne so, il numero di alunni per le classi, i voti degli studenti, la disponibilità delle mense, del tempo pieno, l'assenza degli insegnanti, la messa a norme degli edifici. Insomma, 96 indicatori che hanno dato questo tipo di classifica. Il punteggio, in base a tutte queste risorse, strutture, organizzazione, condizioni del personale, vede al primo posto, secondo questa classifica come province, Biella con 519 punti, seconda Torino, terza Lodi. Le grandi città, c'è Milano al 7° posto. E poi via via scendendo troviamo le altre. Bari, per esempio, è il 43° posto. Palermo, in generale, diciamo che il nord vince nettamente. Agli ultimi posti, al 98° posto c'è Napoli, al 96° posto c'è Palermo, dunque parti bassissime della classifica. Oh, la città per eccellenza Roma, me la sono persa. Comunque, vabbè, ci sarà anche Roma, ovviamente. E allora, tra l'altro, c'è un commento di Gian Antonio Stella dal titolo "I prof reggini si ammalano più del triplo degli astigiani". Questo è un aspetto, uno degli indicatori analizzati. L'area dello stretto fa male ai professori? Si chiede Gian Antonio Stella. Non puoi non farti questa domanda davanti ai dati dell'ultimo rapporto di Tutto Scuola. In media i docenti reggini si ammalano 12,8 giorni l'anno, 3 volte più dei colleghi di Asti, 3,6 giorni di media all'anno. Vediamo anche il personale ATA, cioè i bidelli, segretari e così via. La provincia con meno assenteismo è quella di Cuneo, 7,5 giorni all'anno. Quella con più assenteismo, quella di Nuoro, con 15 giorni. Reggio Calabria invece subito dietro con 14,5 giorni. La Calabria svetta in cima alle classifiche per un'altra cosa, per i voti più alti dati ai maturandi. Sotto un articolo di Tutto Scuola dal titolo "Quasi geni a Vibo Valentia" si scopre che il 33,6% dei diplomati viene diplomato con un 100 oppure addirittura 100 e lode. 33%, con 100 o 100 e lode, una percentuale molto più alta della media nazionale, il 23%, addirittura tripla rispetto a quella della provincia di Varese. Insomma, questa classifica di Tutto Scuola fa capire che ci sono sicuramente degli squilibri. Trovate tutto a pagina 27 del Corriere della Sera. Una segnalazione invece dal Quotidiano Nazionale molto breve. Gianluca Zambrotta, che è un giocatore della Nazionale, giocatore del Milan, ha deciso anche, come si legge a pagina 14 il Quotidiano Nazionale, di donare